Liberi Dentro e Duradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Giovedì 25 febbraio, buongiorno di nuovo a tutti gli nostri ascoltatori tra la città e il carcere. Sono le 9, siamo su Radio Città Fujiko, canale 103.1 e 10.30, Teletricolore, canale 636. Io sono sempre Caterina Bombarda e qui con me ci sono Ignazio De Francesco da Montesole, buongiorno. Buongiorno, gli dico ahla wa sahlan, che è un altro modo per dire in arabo, che vuol dire da noi trovate una famiglia e una valle. Bello. E Maria Chiara Gallo da Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno, allora rilancio io con Sabah al-Nur, dunque giorno di luce. Bello, bello questo scambio, bellissimo. Bene, parto sempre con le nostre notizie di cronaca bianca, perché siamo a Saluzzo, in provincia di Cuneo. Matricole dietro le sbarre, Torino fa scuola, leggo da La Voce e il Tempo. In un momento in cui la pandemia preoccupa l'amministrazione carceraria, I lavori però nelle scuole, all'interno delle università e delle scuole, non si fermano, sebbene le difficoltà. Quindi è stato firmato un accordo il 26 di gennaio scorso tra l'Università di Torino e il penitenziario di Saluzzo e l'ufficio locale esenzione penale esterna di Cuneo per l'avvio di un polo universitario distaccato da quello del carcere Lo Russo di Cotugno di Torino, il primo in Italia, nato nel 98 col sostegno della Compagnia di San Paolo. Hanno firmato questo documento il rettore dell'Università di Torino, la direttrice della casa di reclusione e un professore di sociologia ha evidenziato che questa convenzione intende proprio favorire il diritto e l'accesso agli studi universitari dei detenuti ospitati nel carcere di Saluzzo, diritto che ricordiamo sancito anche all'articolo 27 della nostra Costituzione. Le pene devono tendere alla risocializzazione delle persone detenute, assicurando quindi condizioni di detenzione che favoriscano e integrino le persone detenute. E ovviamente tra i nodi da sciogliere, questo bisogna dirlo, la possibilità di accedere allo studio per le donne recluse, che sono poche, al momento a Torino sono solo 4, però bisogna arrivare a questo obiettivo, per la parità dei diritti per tutti, per i generi, insomma. Quindi l'auspicio è che l'apertura del polo di Saluzzo incentivi l'iscrizione di altri reclusi agli studi universitari e spinga l'amministrazione carceraria al potenziamento degli spazi dedicati allo studio in carcere. Quindi sosteniamo questo accordo. Ma ora Ignazio, do la parola a te per parlare delle nostre notizie internazionali. Sì, le notizie internazionali di solito si dice allora lì c'è stata la bomba, lì c'è la guerra, lì è arrivato il presidente, lì hanno fatto un accordo economico. Non ci si rende conto che sono notizie internazionali anche le notizie minime della vita delle persone. E qua io vi voglio postare una testimonianza, un ricordo che ho bellissimo di una persona che è stata reclusa a Bologna, adesso non c'è più, non so dov'è, non so se è stato scarcerato. È un pescatore in Tunisia, Sfax, e mi raccontava di una tradizione bellissima, che abbiamo parlato della sciarga, della pesca della sciarga, questa lui che la chiamava il marca. Il marca vuol dire che quando si arriva col peschereccio nel porto, alla mattina presto, no? Si ritorna dalla notte, poi alle 5:30, alle 6, sul molo che cosa ci sono? I bambini, i poveri, che vanno a prendere i pesciolini, si scaricano le cassette, però i bambini poveri vanno a chiedere l'elemosina di questi pesciolini che è chiamata appunto il marca. E lui dice che le prendeva con questi pesci, anche pesci un po' più grossi, si faceva prendere dal cuore e dava a ognuno di questi bambini un po' di pesciolini. E questo atto bellissimo era condito da un atteggiamento delicatissimo del cuore, che diceva io non li guardavo in faccia. Allora io gli ho detto, ma scusa, cos'è questo takabbur, cioè per superbia, che non guardi in faccia la gente? No, il contrario, perché non volevo ferirli, perché la persona peggiore è considerato il mannan, quello il rinfaccione, quello che gli sto facendo il favore. Allora, per evitare di avere un atteggiamento di disprezzo, di superbia, lui dava a questi bambini che li conosceva poi uno per uno, gli pesciolini uno per uno. Allora, quando io penso che poi lui ha combinato un fattaccio in Tunisia, poi è venuto in Italia, ne ha combinata un'altra grossissima. Quindi ha sbagliato grosso, e tuttavia quest'uomo era l'uomo dell'elemosina dei pesciolini. E mi fa pensare che nessuno mai è solo il suo reato, il suo errore. Certo, assolutamente. E dacci però allora il là per un altro brano musicale, sempre dal Marocco. Allora, se mi ascolta lui in particolare, non so, può essere che anche ascolti, gli dico a lui e tutte le persone del Nord Africa e non del Nord Africa, questo testo bellissimo di Nabila Mahan, che è Shams al-Ashiya, cioè il sole di sera. Ya shams al-ashiya amhilla taghib billahi rifqa hayya ijtima biya hatta zidtani fil qalbi shawqa tarafaq alayya inni fil malih qad zidtu ishqa fil wadi al-mudhab fil wadi al-mudhab fil wadi al-mudhab fil wadi al-mudhab wa wajhu مثل التريا والساقي مؤدب يسقي بالأواني البندقية صففوا القطع وزيدوا نغنموها العشية صففوا القطع وزيدوا نغنموها العشية كلنا كأس في يدو يغتنم ساعة هنية كلنا كأس في يدو يغتنم ساعة هنية يا شمس العشية Eccoci, bentornati su Liberi Dentro, sulle note di Nabila Mahan, Il sole di sera, traduco in italiano il titolo della canzone. Siamo sempre con te, Ignazio, e continuiamo questo percorso molto bello, molto interessante, sulla virtù del perdono. Ecco, questo capitolo, penultimo capitolo della settimana, cosa serve il perdono? Beh, ho perdonato uno, mi ha fatto qualcosa di male, basta, vai, tu perdone. Dice qua, aumenta la fede. Irtifa Rasid Liman Lada Sahibia, cioè aumenta la sua fede, perché nel dare il perdono, questa è la sapienza, uno aumenta la fede nel Dio che perdona, e noi ce l'abbiamo, noi diciamo nel Padre nostro, rimetti a noi i nostri debiti, cristiani, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori. In arabo, Ekfer lana khatayana kama nahnu aidan naghfur. Quindi il fatto di perdonare aumenta la fede in un Dio che è capace di perdonare. Grazie Ignazio, e adesso ci spostiamo sempre con la nostra ospite Maria Chiara Gallo. Abbiamo parlato all'inizio di puntata dello studio, come parlando del polo universitario nuovo distaccato di Cuneo, cioè di Saluzzo in provincia di Cuneo, dello studio come diritto sancito dalla nostra Costituzione che deve essere anche perseguito in carcere, stando all'articolo 27. Ora, naturalmente non c'è un diritto invece al canto sancito nella nostra Costituzione. Però nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, all'articolo 27,1, leggo: ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici. Cosa ne pensi? Come il canto si inserisce allora? C'è? Si inserisce assolutamente. Intanto mi trovo d'accordo questa affermazione. Ma si inserisce a più livelli, perché il canto non è solo quello che io faccio nella mia stanzetta al mattino, al pomeriggio, per esercitarmi, per prepararmi ai concerti. Coinvolge una serie di discipline, no? Che stimolano la mia voglia di studiare, la mia creatività e l'ascolto anche degli spettatori e delle persone che sono con me. faccio l'esempio di un'opera teatrale, no? Oppure del cinema, in cui la musica in generale, non solo il canto, fa da padrone, perché, diciamo la verità, un bel thriller o un film, non so, Nuovo Cinema Paradiso, cosa sarebbe senza la sua colonna sonora? O anche solo un film del terrore di Hitchcock cambierebbe radicalmente. Oppure se per caso mi trovo in uno spettacolo teatrale, in un'opera, non sono da sola io sul palcoscenico, ho nella buca davanti a me l'orchestra e ho una serie di persone che lavorano insieme a me. Per esempio ho fatto un'opera del Settecento in cui abbiamo lavorato con degli acrobati, dei circensi, degli attori, delle comparse, dei figuranti, che facevano delle cose che io assolutamente non ero in grado di fare. Per esempio lanciarsi con le funi da 12 metri di altezza, non mi sarei mai attentata. Oppure, sì, insomma, il diritto allo studio sarebbe assolutamente inalienabile e auspicabile anche per quanto riguarda la musica, sia fuori dal carcere che dentro al carcere, per cui sarebbe interessante, come dire, stabilire una routine di studio che non sia solo scolastica, nel senso delle materie come scienze, italiano, inglese, ma che inserisse anche la musica secondo le aspirazioni delle varie persone, no? Se posso aggiungere, scusa, la cosa che ha detto Caterina all'inizio, citare anche la nostra Costituzione, adesso la cito a memoria, l'articolo 4 sul diritto al lavoro. Adesso si chiama Maurizio Millo, il magistrato, poi mi corregga lui perché cito a memoria: ognuno lavora un diritto, ma uno ha il dovere di esercitare un'attività o professione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Sì. E io ho sempre visto in questa cosa il progresso spirituale anche la musica e le arti. Sì, quindi, purtroppo non è nella realtà di oggi, anche con il periodo della pandemia. Ecco, non è che proprio il nostro lavoro sia considerato un lavoro vero e proprio. Mi rendo conto che non sia come un lavoro sanitario o un lavoro da avvocato o da giornalista o nella ristorazione, però è un lavoro assolutamente che portiamo avanti con dignità. Dunque è una possibilità per tutti. Sarebbe bello che fosse una possibilità anche per le persone detenute, no? Perché no? Di scoprire anche magari dei talenti o delle aspirazioni che non sanno di avere. Grazie, e con te sempre oggi ci salutiamo con allora un brano hit del momento del 2021, lancerei Luciano Ligabue, Volente o Nolente, e noi ci rivediamo domani. Dipendesse da me il telefono suonerebbe solamente notizie belle e bella compagnia. Dipendesse da me, non saresti là fuori in giro, ma sapresti che cosa fare e lo saprei. Ben ritrovati su Liberi Dentro, siamo sempre con il nostro Marcello Mattè, cappellano del carcere della Dossa, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. E oggi Marcello continuiamo sempre il nostro Vangelo di Marco, siamo alla seconda domenica di Quaresima e abbiamo un Vangelo un po' difficile perché parla di una parola che è la trasfigurazione ed è quasi un evento inspiegabile, vero? Cioè, significa un cambiare di aspetto, apparire diversi da come si è realmente. e stiamo commentando il Vangelo di Marco al capitolo 9, versetti 2-10. E infatti, per commentare questo cambiamento di aspetto, c'è una... viene scritto in uno dei versetti che Gesù appare a Pietro, Giacomo e Giovanni con delle vesti bianchissime, tanto che neanche un lavandaio avrebbe potuto renderle così bianche. Credo che voglia dire due cose, Marco, con questa immagine. Una, che si tratta di un'esperienza di luce, una luce intensa che non è però di questa terra, ed è credo questo il secondo messaggio che Marco vuole darci. La trasfigurazione è un'esperienza spirituale, non è tanto un'esperienza fisica. E questa luce è una luce interiore. E qualche commentatore suggerisce di interpretare la trasfigurazione non tanto come qualche cosa che trasforma Gesù agli occhi dei discepoli, ma è una trasfigurazione che avviene all'interno degli occhi dei discepoli. Cioè sono gli occhi dei discepoli che riescono a vedere Gesù con una luce diversa. Una luce talmente intensa che non può essere di questo mondo, ma è una luce che viene da dentro, è una luce che viene donata dall'incontro appunto con il Gesù trasfigurato e visto con occhi diversi, gli occhi della fede, gli occhi che vengono donati da Dio stesso per poter capire Gesù. E che significato può avere il fatto che di fronte a questa trasfigurazione, allora questi discepoli, sempre Pietro, Giacomo e Giovanni, credano di vedere allora forse Mosè ed Elia al suo fianco? Non so se credano di vedere. Io credo che semplicemente Marco voglia darci anche qui un tratto di carattere simbolico. La presenza di Mosè ed Elia significa in realtà la presenza dell'intera parola di Dio. La parola di Dio nella tradizione ebraica era suddivisa in due grandi parti. La parte della legge, il cui protagonista e, diciamo così, interprete maggiore era appunto Mosè, e la parte dei profeti, che è il cui protagonista maggiore e più rappresentativo è Elia. Nella parte della legge, i primi cinque libri della Bibbia, la Torah, si danno le indicazioni che costituiscono questa alleanza fra Dio e il suo popolo. Nella parte dei profeti si richiama il popolo alle condizioni di questa alleanza. Il popolo che è tentato sempre di trasgredire, di mettere da parte questa alleanza, viene richiamato a viverla, a interiorizzarla, a farne qualcosa di profondo. Il fatto che Gesù si trovi insieme a Mosè ed Elia credo che voglia riproporci un fatto che può essere anche storico, e cioè che Gesù con i suoi discepoli si è ritirato su questo monte e insieme a loro ha letto la Bibbia. Però l'ha letta spiegandola e permettendo ai discepoli di capire la Bibbia con occhi diversi e di vedere attraverso questa nuova lettura un Gesù diverso, un Messia diverso da come se lo erano forse aspettato e da come anche l'aveva annunciato Giovanni Battista. Loro possono finalmente, leggendo la Bibbia, cioè leggendo Mosè e i profeti, vedere Gesù con occhi diversi, vederlo trasfigurato. Ti tocca adesso lanciare un brano musicale? Molto volentieri, e vi propongo questa mattina un brano forse non molto conosciuto, che è Valsinà, cantato da Mia Martini, perché questa versione italiana di un testo poetico di Chico Buarque in realtà parla della trasfigurazione di un amore che coinvolge l'intera città e diventa trasfigurazione di una piazza, di un villaggio, di una città. Ascoltiamola con piacere. Giorno a casa lui tornò più presto, come non faceva quasi più, e la guardò in un modo ben diverso, come non faceva quasi più, e non parlò più dell'aumento, unico argomento dei discorsi suoi, con una strana tenerezza e un poco di amarezza disse andiamo fuori poi. E allora lei si fece bella con cercò nel fondo di un cassetto quella camicetta che le regalò, e lui la tenne per la mano come la teneva tanto tempo fa, come un ragazzo e una ragazza scesero alla piazza e incominciarono a ballare, e al suono della loro danza il vicinato addormentato si affacciò e scese sulla piazza scura e molta gente giura che si illuminò, e furono baci rubati, gridi soffocati che nessuno soffocò. Che mondo fece suo in pace l'alba, poi spunto. E rieccovi, ben trovati sulle note musicali di Mia Martini, siamo sempre su Liberi Dentro, stiamo commentando il Vangelo di Marco. E l'ultima domanda che ti volevo rivolgere, Marcello, riguarda l'apparizione di questa nube, a un certo punto nel brano del Vangelo, che copre i discepoli e Gesù con la sua ombra. E da questa nube esce una voce che proclama, appunto, questo è il mio figlio, l'amato, ascoltatelo. Cosa significa? La nube nella simbologia biblica ha un significato abbastanza consolidato e ripetuto, e cioè indica la presenza di Dio. Questa presenza che accompagna il popolo di Israele in uscita dalla schiavitù d'Egitto, lo accompagna facendo luce di notte e ombra di giorno. È una nube che si poserà sulla tenda dove è custodita l'arca dell'alleanza, che è il segno della presenza di Dio in mezzo al suo popolo, che cammina con il suo popolo. Ed è una nube talmente efficace da essere richiamata dall'Evangelista Luca nel momento in cui Gabriele va a portare l'annuncio a Maria che le nascerà un figlio. E dice, lo Spirito Santo scenderà su di te e l'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Ecco, questa nube che copre Maria e la rende incinta del Figlio di Dio è la stessa nube dalla quale esce una voce che dice di Gesù, questo è il Figlio di Dio, questo è il mio figlio, ascoltatelo. Quindi si potrebbe dire che c'è una sorta di comprensione per gradi da parte dei discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, che all'inizio vedono questa trasfigurazione, poi vedono Elia e Mosè, quindi è una seconda fase di comprensione tra l'Antico Testamento e il Nuovo, e poi l'apparizione della nube che è Dio stesso. Sì, direi di più. Credo che ci sia anche una progressiva comprensione di Gesù della sua stessa missione. Gesù stesso che si interroga insieme ai suoi discepoli, non solo quando domanda loro, ma a voi chi dite che io sia? In questo momento ne chiama tre con sé, li porta sul monte, leggono la parola di Dio insieme e Gesù cerca di capire insieme ai suoi discepoli qual è il significato profondo della sua missione, chi sia lui stesso, qual è la sua vocazione. E dalla lettura insieme ai discepoli della parola di Dio scoprono e sentono, avvertono la presenza di Dio come una nube dalla quale esce la voce che finalmente lo conferma. Sì, questo è il figlio mio, ascoltatelo. E però questa comprensione diventerà, si prolungherà, andrà avanti nel comprendere che la sua missione non è quella di Messia potente, guerriero, venuto per dominare, ma del Messia, del figlio di Dio che è venuto per dare la sua vita. Grazie Marcello, concludiamo con un brano musicale, lancerei Erma Franklin, Peace of My Heart. Alla prossima, grazie. Alla prossima, buon ascolto. Didn't I make you feel like you? eccovi dopo aver ascoltato il nostro cappellano della Dozza, Marcello Mattè. Ci diamo sempre appuntamento domani alle 9 sulla radio, Radio Città Fucico, alle 10.30 su Teletricolore. E oggi pomeriggio il laboratorio è Diritti al Punto, alle ore 17 su Teletricolore, con i ragazzi del Poggeschi che intervistano Maurizio Millo. Scriveteci, indirizzo postale, Chiesa Santissima Annunziata, via San Mammolo 2, 40136 Bologna, oppure liberidentro.eduradio@gmail.com. Un saluto e a domani.